voglio fare l'amore, fare l'amore, fare l'amore, fare l'amore. Voglio uscire con te, voglio stare con te, voglio stare con te. E voglio fare l'amore, voglio fare l'amore, e abbracciarti per ore, abbracciandoti per ore. Voglio uscire con te, voglio stare con te, voglio stare con te, e pensare al piacere, pensando al piacere di poterti avere. Yeah, oh, oh. Baby, questa sera tu sei il mio pensiero, la dea bendata con un velo di mistero. E sarà il vino che mi renderà sincero. Vicino a te, mia lady, non mi sento prigioniero. Adoro quando mi fai stare sul tuo seno. Sto mondo sembra meno pazzo e più sereno. Ed io mi dedico completamente a te. La tua vita sento che fa parte anche di me. E non ti devi preoccupare quando ti senti giù. Il tuo uomo è sempre pronto qui per tirarti su. Oh baby, ricordati che solo i tuoi sorrisi sono cibo per me. E non fare la gelosa non ti servirà più. Loro sono solo amiche, la mia donna sei tu. Oh baby, non posso farne a meno, solamente voglia di stare con te. Voglio uscire con te, voglio stare con te, voglio stare con te. E voglio fare l'amore, voglio fare l'amore, e abbracciarti per ore, abbracciandoti per ore. Voglio uscire con te, voglio stare con te, voglio stare con te, e pensare al piacere, pensando al piacere di poterti avere. Yeah, oh, oh, oh. E a volte non si guarda oltre, non si capisce a chi dare ragione, a chi le colpe. Tipo quando litighiamo, per un po' non ci parliamo, ma so che a mente fredda ci pensiamo e poi ci riabbracciamo. Un'ora prima vorrei solamente odiarti, e l'ora dopo sono pronto già per consolarti. Siamo come Bonnie e Clyde, amici per la vita, soci in una storia mai finita. Tu sei il sole e la luna, tu sei la secca e la piena, tu sei il profano e la chiesa, e vivi dentro di me. Tu sei il vento e la vela, tu sei il mattino e la sera, tu sei il sogno che avvera tutti quei pensieri miei. Voglio uscire con te, voglio stare con te, voglio stare con te, e voglio fare l'amore, voglio fare l'amore, e abbracciarti per ore, abbracciandoti per ore. Voglio uscire con te, voglio stare con te, voglio stare con te, e pensare al piacere, pensando al piacere di poterti avere, di poterti avere. Voglio uscire con te, voglio stare con te, voglio stare con te, e voglio fare l'amore, voglio fare l'amore, e abbracciarti per ore, abbracciandoti per ore. Voglio uscire con te, voglio stare con te, voglio stare con te, pensare al piacere, pensando al piacere di poterti avere. Yeah, oh, oh, oh. Voglio uscire con te, voglio stare con te, yeah, oh, oh, oh. E voglio fare l'amore, yeah, e abbracciarti per ore, yeah, oh, oh, oh. Voglio uscire con te, voglio stare con te, yeah, oh.